La Sirenetta. C'era una volta, nel cuore del profondo oceano, un bellissimo regno dove il re viveva con le sue 6 figlie e la sua vecchia mamma. Il re amava tutte le sue figlie, ma la sua prediletta era la più piccola, la sirenetta Eva. Arrivò il compleanno della sua 5ª figlia. Tutti si riunirono nella corte del re per festeggiare. Buon compleanno, mia dolcissima figlia! Grazie davvero, papà! Buon compleanno, principessa! Buon compleanno, principessa! Grazie a tutti! Sono fiero che la mia 5ª figlia Marina oggi ha compiuto 18 anni. La manderò in superficie, così si divertirà sotto il sole e all'aria fresca. Salute a tutti! Salute! Grazie davvero tanto, papà! Ma ricordati, ci sono delle regole del mondo del mare che devono essere rispettate. Il mondo degli umani non è come quello del mare. Noi apparteniamo al mare e dobbiamo rimanerci. Fai attenzione a non avvicinarti agli umani. Scusa, papà, posso andare con Marina? Non è ancora il tuo turno, cara. Ma io voglio vedere gli umani. Oh, Eva, quando avrai 18 anni ti prometto che ti farò andare lì. Oh, no! Mi spiace per te, principessa. Mio padre non mi vuole bene. Tutti sanno che ti vuole un gran bene, ma ci sono delle regole che dobbiamo seguire. Manca solo un anno al tuo turno. Davvero? Yeah! Forza, giochiamo al pesce palla! La piccola sirenetta era molto bella. Era molto gentile con le creature del mare. Tutti le erano affezionati. Nonna, gli umani sono come noi? No, loro hanno le gambe e noi no. Oh, quindi gli umani sono superiori a noi? No, loro non hanno imparato a proteggere l'ambiente e inquinano il nostro mare. Ma vivono più di noi? Non proprio. L'età di un umano arriva al massimo a 100 anni o meno. E noi quanto viviamo? Con la grazia di Dio possiamo vivere fino a 300 anni. Ma quando le sirene muoiono, si trasformano in schiuma e vanno nel mare. Ma la cosa importante è se facciamo buone azioni per tutta la vita, possiamo diventare immortali e le fate dell'aria ci portano in cielo a vivere con loro. Oh, davvero è così, nonna? Ora è tardi, va a dormire. Buonanotte. Buonanotte, nonna. Era tanto il desiderio di vedere gli umani che Eva contava ogni giorno. Col passare dei giorni alla sirenetta veniva sempre più voglia di vedere gli umani. La notte prima del suo compleanno non riuscì affatto a dormire. Appena arrivò alla corte del re, le sue sorelle le augurarono un buon compleanno. Buon compleanno, sorellina! Grazie, mie care sorelle! Buon compleanno, mia cara Eva! Grazie, papà! Sono fiero che la mia figlia più giovane oggi ha compiuto 18 anni. È il momento di far fede alla tua promessa, maestà! Sì, piccola principessa. Andiamo, ti mostrerò il mondo. Ma, papà, hai permesso a tutte di andare da sole. Voglio vedere il mondo insieme a te, mia cara. No, quando avrai 80 anni, ti prometto di portarti con me. Bimba dispettosa, vai e stai attenta. Fai attenzione a non avvicinarti agli umani. Potresti trovarti nei guai. Non preoccuparti, re, mi prenderò cura di lei. Oh, bene, ma tornate prima del tramonto, altrimenti ti mangerò in un boccone. Ah, torneremo prima di sera, maestà. La sirenetta era molto contenta di vedere il mondo esterno. Nuotava più veloce del gambero. Oh, sono così felice. Ehi, aspettami. Non posso aspettare più! In breve la sirenetta raggiunse la superficie del mare. Era tutto nuovo per lei. Il cielo blu, il sole splendente, gli uccelli bellissimi. Oh mio Dio! È veramente fantastico! Meglio dei miei sogni! Ehi, cos'è questo suono? È una nave! È quell'uomo? Oh mio Dio, ma sembra proprio come il bambolotto che ho io! Penso sia un principe. Sembra stia celebrando il suo compleanno. Oh! Rimase così affascinata dal principe che iniziò a cantare. All'improvviso in cielo apparvero tante nuvole nere. L'intero oceano cominciò a ruggire con onde altissime. Guarda! La tempesta! Oh! Sento delle onde altissime! Vanno sulla nave! Oh! Stai attento, principe! Stai attento! Ma nessuno sentì le sue grida. Il vento era tanto forte che fece ondeggiare la nave e alla fine l'affondò. Oh no! Il principe! Dobbiamo salvarlo! La sirenetta salvò il principe e nuotò con il bel principe fino alla spiaggia. Hop, hop, hop. Per favore, apri gli occhi! Rimase in attesa che il principe riprendesse conoscenza. Eva! Svelta! Sta arrivando qualcuno! Oh, devo andare, principe! Stai bene! Oh, qualcuno è morto in mare! È ancora vivo! Portiamolo al tempio! Proprio allora il principe si svegliò e vide una delle ragazze. Grazie per avermi salvato la vita. Il principe non si rese conto che era stata la sirenetta a salvargli la vita. Oh no, gli hai salvato la vita e lei se ne prende il merito. Non importa, sono già felice di vedere che è ancora vivo. Il sole stava calando, così tornarono al loro regno. La sirenetta era triste perché sapeva che non avrebbe mai più rivisto il principe. Ti amo, principe. Vorrei solo essere con te. Mi ama? Non mi ama. Mi ama? Non mi ama. Mi ama? Non mi ama. Sento un odore qui dentro. È questo che fa l'amore? L'amore è la cosa più meravigliosa dell'universo. Sì, sì. Io voglio vivere con lui. È contro la legge del mare. Non mi importa. Non posso più vivere senza di lui. Avrei un'idea, ma è troppo rischioso aiutarti. Il re mi mangerebbe in un boccone. Dimmi, non ti preoccupare. Beh, c'è una persona che ti potrebbe aiutare, ma è pericoloso avere a che fare con lei. Sono disposta a rischiare tutto per il mio principe. Dimmi, chi è? La strega marina delle montagne nere. È molto rischioso andare lì. Sono pronta a rischiare. Senza esitare un secondo, la sirenetta e il gambero lasciarono il palazzo per andare nella tana della strega. La strega vide nella sua sfera di cristallo che la principessa stava arrivando alla tana. Poverina! È finita adesso. La principessa è la creatura più amata disponibile di questo mare e a causa della sua buona azione diventerà una fata vivente dopo la sua morte e sarà la fine di tutti i tuoi peccati. Non appena lei diventerà una fata, tu morirai. No! Non permetterò che accada! Caspiterina! Perché la figlia del re del mare è venuta dalla strega? Vorrei diventare un'umana. Oh, per quel giovane principe? Sì, sono innamorata del principe. Questo ti farà soffrire, principessa. Non mi importa, voglio solo stare con lui. Sei sicura? Conquisterà il suo cuore? Sì, lo farò. Bene. Posso trasformarti in un essere umano, ma per questo pagherai un prezzo. Pagherò tutto quello che posso. Va bene, allora prenderò la tua bella voce in cambio. E ricorda, se il principe si innamorerà di te, allora diventerai un essere umano e la tua voce ritornerà. Se non riesci, invece, morirai con il cuore spezzato e ti dissolverai come schiuma di mare. Io sacrificherei tutto per lui. Va bene, prendi allora questa pozione magica e bevila quando sarai sulla riva del mare. La sirenetta prese la pozione e andò verso la spiaggia. Raggiunse la superficie e bevve la pozione. All'improvviso perse conoscenza dal dolore e la sua coda si trasformò in un paio di gambe. Quando si svegliò, vide il principe al suo fianco. «Apri i tuoi occhi, bella signora. Sei al sicuro. Ma da dove vieni?» «Ti ho trovata sulla spiaggia e ti ho portata qui. Adesso riposati per un po'.» Il giorno dopo la sirenetta iniziò a camminare. Il principe la vide e sembrò molto felice. «Mi sento molto felice oggi. Vuoi ballare con me?» «Oh, balli benissimo! È un giorno fantastico per me! Ho trovato l'amore della mia vita!» «Sì, anche lui ti ama!» «Guarda, è tornato mio padre!» «Bentornato, padre! Voglio farti conoscere l'amore della mia vita, colei che mi ha salvato la vita!» «La amo, padre! La voglio sposare!» «Figlio mio! La tua felicità è la mia felicità!» La sirenetta aveva il cuore a pezzi. «Sento un dolore terribile nel mio cuore!» Il re annunciò il matrimonio del principe. «L'ho perso per sempre! E ora il primo raggio dell'alba mi troverà morta! E io scomparirò nell'oceano!» Il gambero tornò al palazzo reale e raccontò tutto al re del mare e le sue figlie. «Oh, la mia povera figlia! So che questo è uno scherzo della strega!» Il re pregò gli dei del mare, prese il suo tridente e nuotò verso la superficie insieme a Gambero. Allo stesso momento tutte le sorelle nuotarono verso la tana della strega. «Mia sorella è davvero nei guai ora! Ti chiediamo di annullare subito l'incantesimo!» «Sì, per favore, non lo dimenticheremo!» «Che vergogna! Le principesse del mare che visitano una strega! Beh, posso annullare l'incantesimo, ma lei deve uccidere il suo bel principe!» «Se la sirenetta ucciderà il principe con questo pugnale magico, solo allora potrà ritornare alla sua vita da sirena!» Le sorelle nuotarono verso la superficie e spiegarono al padre come annullare la maledizione. Videro Eva seduta sotto un albero che guardava il suo pupazzo. «Eva!» «Papà! Sorelline!» «Non piangere, piccola mia! Se vuoi annullare la maledizione, dovrai fare quello che ti dico io. Dovrai uccidere il principe e così tornerai ad essere una sirena.» «No, papà!» «Lo so che lo ami, figlia mia, ma non potrà mai essere tuo. Fallo per tuo padre, Eva. Altrimenti morirai, piccola mia!» La sirenetta guardò suo padre e le sue sorelle che piangevano. Prese il pugnale e andò verso il palazzo. Il principe stava dormendo nella sua stanza. Puntò il pugnale al petto del principe per ammazzarlo. «Oh mio Dio! Non posso fare questo al mio amore! Sarei felice di morire piuttosto che ucciderlo! Può sposare il suo amore e vivere felice! Buona fortuna, amore mio!» Tornò dal padre e le sorelle. Erano scioccati nel vedere il pugnale senza sangue. Il sole stava per sorgere. Si avvicinò alla spiaggia e saltò nel mare con il suo pupazzo. «Voglio sparire e trasformarmi in schiuma. Addio, amore mio. Addio mio papà, le mie sorelle, perdonatemi. Addio. All'improvviso una forza misteriosa la sollevò dall'acqua. Le fatine dell'aria apparvero e la tolsero dal mare. Oh mio Dio, grazie per aver salvato la vita di mia figlia. Ma dove sono? Tu verrai con noi in cielo. Noi siamo le fatine dell'aria. Vogliamo darti un premio per la tua gentilezza, il tuo amore verso gli esseri umani e le creature del mare. Ora potrai avere un'anima immortale e in futuro nascerai come un essere umano. Grazie, grazie fatine. La sirenetta salutò tutti per l'ultima volta. Ti amerò per sempre, mio dolce principe. Nella tua prossima vita sarai di nuovo il mio amore. Addio, amore mio, addio. E così salì in alto nel cielo, insieme alle fatine dell'aria.